Ciao bello! Com'è in piazza? Che si dice? Che si dice? Che si dice? Guarda il 2000 come va! Ciao bello! Quante volte te lo devo dire? Posso prendermi un cappuccio, forse una pizza da Livio, eh? Andiamo in tabaccheria e ci prendiamo un pacco di sfighe pazzesco. O a BB Center a fare un massaggio. Mamma mia, che vuoi che ti dica? Oppure andiamo a Lucchini, oppure da Ceriani, eh? Ce ne sono altri milioni come me, come te. Quanti siamo? Siamo in 20, siamo in 30. Siamo forse un mondo che vuole un tetto. Siamo forse un lutto che ora smetto di piangere, lo ammetto. Ho fatto troppo con tuo nome dentro, ma ora smetto. Io cane e mezzo faccio di un verso un arte che prende parte e ogni sogno riparte. Oh bello, ah, com'è? E Lady, e la Pan, e la Sara. Oh, salutami il Gigi, bella. Bella vecchia, ma snago. Saluti, eh? Poi magari ci prendiamo qualcosa alla vecchia riva, eh? Un bel piatto di trofi al pesto, eh? Un bel piatto di trofi al pesto, eh? Al lago, andiamo a fare un tuffo. What's the lifetime now? Come with me. This is my love song. Spero ti arrivino le parole. Siamo dentro a mille bugie d'amore, perché a dire il vero il cuore fa troppo rumore. Taci cuore, perché il giorno fa troppa luce e la notte troppe sere sole. Vivendo fino a lì senza di te, solitari amori di mezzi amori. What's the lifetime now? You wanna come with me, my lady? Our secret, my little secret. Society in the friendship business, in a friend business, my friend can go round. Maybe, com'è? Ci si vede da bicio stasera? Ci si vede da bicio al DNA stasera? Forse andiamo dalla Susi in centro. Cosa dici? Alle corti? O forse andiamo a vedere qualcosa? Raffo, eh? Che recita? Forse. O forse andiamo a berci qualcosa. Brindiamo a questa segreta sposa. Ce ne sono altri milioni come me, come te. Quanti siamo in 20, siamo in 30. Siamo forse un mondo che vuole un tetto. Siamo forse un lutto che ora smetto di piangere, lo ammetto. Ho fatto troppo col tuo nome dentro, ma ora smetto. Oppure col tuo nome, oppure sempre come un sole, guardando il sole dal tuo sguardo, un cielo mistero. I suoi occhi vedranno coi miei, e ora che ho dentro solo 16 sì. Guardare nella stessa direzione vuol dire amare. Se il sogno di un amore vale un diamante, e con te al fianco il mondo non potrà tagliare mai il mezzo mio, tuo mezzo cielo e ridono. Malin, Rihanna, Malin, business, Malin, business, business. Welcome to the Fondo, new business, it is Sam. This track is dedicated to my plaza, Masnago, Varese, 2014. Welcome to my little world, mondo fumo digitale. This is a fast part to money. This is a fast part to money. Magari ci vediamo domani mattina, al bar Cavour, o dal Ceriani. Forse a mangiare una pizza dal Livio. O forse ci vediamo al kebab Gabibbo, kebab Gabibbo, kebab Gabibbo. O forse una pubblicità, come si chiama? Abbiamo capito, insomma, no? Sole 24 ore al giorno, What's a lifetime now? Oh, Mr. Diz, quando cazzo vieni a farmi sto cazzo di mixaggio? Porco diga, che qua la gente aspetta di sentire il nuovo CD. Saluti, Buenas vidas, buenas noches a todos. A todos Varese. Saludes. Saludes. Buenas noches. Bonjour à tout le monde. Je suis arrivé.